Sei sicuro? Sei sicuro? No, ma mi sembra di sì. La canta un trapper. Io so che la canta un trapper di quelli usciti in mobile adesso, che fanno canzoni per ragazzini. Allora, pinguini, tattici nucleari. Allora, ti fai ragione. No, non la cantano i pinguini tattici, no. Ma conosci tu, che la senti sempre, sicuramente. Sì che la conosco, ma pure la conosco. È nuova come canzone. Io l'ho già fatta, l'ho già fatta su internet. Sì, e chi la canta? Come detto, i pinguini tattici nucleari. Loro sono della canta. Quelli sono incantati, si chiamano così, pinguini tattici nucleari. Ma li conosco benissimo. Ma non pensavo la cantassero loro. No. Ehi, ha parlato poco fa. Io non ero sicuro al 100%, ma non ho fatto sì. Non è facile da cantare, è un po' difficilotta. Fatalo! Un casino, non è facile, no? Non è facile perché cambia tono, perché fa danno chi? È un casino, a farlo. Io l'ho fatto a pezzo per pezzo e qui me la sono fatta a pezzo. Diciamo che non è perfetta, però già può andare. Mastello bianco. Ma è bella, vedi? Come, scusa? Ho detto è bella. Passa quel cazzo di eco, cioè, non si comprende niente, sei troppo forte, abbassalo. Ho detto che è bella, adesso è bella. Hai preso molto più vicini. Cazzo, sto cazzo di mal di gola per stare torturando la finta. Ma cosa c'è mal di gola? Secondo te, spray, caramelle, nuda, uno passa. C'è roba di virus, cosa ti passa? Usci di massa. Ci vuole l'antibiotico. Luca, mi hai sentito? Antibiotico. Lo so già. Vabbè, ma se il medico non me l'ha prescritto, io ti posso farlo dal medico. Strano, perché le infiammazioni così vanno curate con gli antibiotici. E poi anche, magari, se hai dolori, roba del genere, con Brufen. Brufen oppure gli antibiotici di occhi, gli antibiotici di... Io non sono dottore, però ci arrivo ancora. Oggi hai fatto vedere anche la gola, c'ho questa macchia, si chiama, se me l'ha detto, cavolo. Quando ti vedo, ma di volta ci sono queste macchie, la... adesso non mi ricordo. La placca. Come? La placca. Cazzo, non ti comprendo già qui, ecco. La placca, vedi? No, c'è un altro nome, questo non mi ricordo. E comunque io ho tutti i miei figli, tutti quanti, adesso li è passato, dopo una settimana, li è passato tutto. Io non lo faccio vedere a Marina perché l'avevo detto a lei. A Marina se l'ha fatto il tampone. Sì, negativo a Marina. Meglio così, perché essendo vicini magari vi potevate contagiare. Infatti lei mi ha detto, lui se sei positivo vieni a casa, ora ci fa, se non ci faccio niente. Cosa? Certo. Dammelo qua, un po' mi svago, metto a saldare, fare qualcosa, anzi domani mi metto qua, c'è la polvere, devo fare una bella pulizia. Infatti, già ti basta, è una settimana ti passa tutto. Se stai a casa, se esci è un casino. Come fa a ballare la Repubblica? Che cosa? Di De Gregori? Non posso uscire già. Come fa a ballare la Repubblica di De Gregori? Repubblica. Come? Ballare la Repubblica? Non me lo ricordo manco io come faccio. Come fa? Chi la conosce? Ah, la AFTA, già AFTA. Ah no, AFTA si chiama AFTA. Non lo sentire, che? Laggiù nel paese dei tropici, quella lì. Che canzone era quella? Quella lì è... Guarda, te la canto adesso. Laggiù nel paese dei tropici, dove il sole è più sole che qua, sotto l'ombra degli alberi esotici, non ti immagini il sordo che fa. Capito qual è? Quella di Gregori, Banana Repubblica, ma non l'ho mai sentita io. Banana Repubblica, quella lì. Sì, sì, sì. anche il fratello come fa, e poi il resto sera per i figli, tutti a caccia, com'è? Non lo so il ritmo. Tutti a caccia la notte fa, e a carezza la notte i piedi, e tu fai la malinconia, ma domani ci facciamo pieno di neve, mi. Ah, meglio, lo riusciamo. Beh, più che neve la nebbia. Sì. Oh, che gioco, mi hai dato un'idea, adesso la faccio. Vabbè, non piccano, sa. No, che non ci ho capito già. Ho detto, mi hai dato un'idea, adesso la faccio, la canto. Canta, la canta. No, qua no, cazzo, qua non canto. Io canto in un'app su internet. Ah, c'hai un canale tuo? Mi diverto, mi passo il tempo così. A volte mi piace, mi stacco la spina. Come riesco a beccarti? Cosa? Come ti devo cercare? Io canto tutte le canzoni, tutte quelle che so. Mi faccio i duetti con altra gente. Ah, bello, ti diverti. Ho capito, ma come ti devo cercare? Beh, devi andare su Star Marker. Star Marker? Marker. Star Marker. Che nome hai? Il tuo? E allora? Sì, mio. Ma bisogna vedere se riesci a trovare, perché bisogna iscriversi nelle famiglie, è tutto un casino, non è così. Oggi una volta. Ciao Anni, buonasera a tutti. Ciao Cristian, ciao, buonasera. Scusa un attimo che sono a te. Penso di sì. No, io sono qua, sono qua. Cercatela. No, già, sto facendo un'altra cosa. E beh, trovatela Teugi. Così già. Provatomi hai. No, ancora no, sto facendo un'altra cosa, Teugi. Comunque ti diverti, metti Star Marker, vabbè, bisogna saperlo usare il programma, ma comunque Luca forse l'ha usato quello, vero? Bobo, tu sai cantare, Bobo. Bobo, c'è Marco. Tu fischi un basso fatelo entrare. Cristian, di nuovo fu stai uscendo. Vabbè, guarda, oggi sono totalmente di fretta. Sì? Sono totalmente di fretta oggi, sto correndo a destra a sinistra. Ah, c'è in fretta, ho capito. Adesso sono riuscito a percepirlo. Tu è Eugenio, a Cristian, bello sì. Luca, ci sei. Giovanni, accontati perché io non ti sento. Di là l'antenna. Cosa? Ma Giovanni stavo dicendo. Anzi, come si dice, come dice qualcuno, mettiti l'antenna. Un attimino c'è il telefono, una pazzidia. Certe notti la macchina è calda, dove si porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta e sentire che va. Certe notti la radio che piglia sopra loro, capito chi sei. Giovanni, ancora ci sei, mi ascolti? 5 giorni che ti aspetto. E fai bene. E faccio bene. E fai bene, sì. Eppure il vento soffia ancora. Sputa l'acqua, le api sulla prora. Ma non è abbastanza con quest'acqua tu? Cos'è che ti manca? Ho detto non è abbastanza con quest'acqua. No, ci sono i bacini, abbiamo bisogno d'acqua qua in Sardegna. Vabbè, io sono nella fase di degustazione adesso, quindi lasciami in pace perché devo sentire se è stagionata. Fai, fai, degusta, degusta. Non ti preoccupare. Perché non mi su. Sto assaggiando il guanciale, si è fatto oggi. Come? Ho detto che sto assaggiando il guanciale, si è fatto. Ma chi c'è, Tino? Eglia. Oh, allora ti diamo un Tino dalle mille modulazioni. Perché com'è questa qua? Ma te lo abbiamo riconosciuto. Vabbè, questa è quella che ho in per comprare. Cosa stai accompagnando? Tutto con un bicchiere di vino? No, no. Vino io non sono tanto per l'acqua, dai. Mi facendo, ma è la tua solita radio, capito? Hai ragione, però aspetta un attimo, così è migliorato, guarda un po', 1, 2, 3. Era troppo forte, sto usando. Troppo forte, ciao Gianni. Sempre le più 5, ma l'avevo le 4 per un'altra radio, adesso... E già va meglio adesso, prima era incomprensibile, era troppo forte. Bene. Ma non è la solita radio che ti sento da casa? È fortissima. Ho provato questo microfono, a tutti l'ascolto siete brutti orecchioni che non siete altro. Ho provato questo microfono con le... Falciccia con un'altra radio e ho dovuto toccare il volume e il tono, capito, con il Lincoln. Adesso ho riportato nel SEAC perché è l'unico che va bene e mi sono rimaste le impostazioni precedenti. No, va bene, no, io non sono, sono qui, ma sono anche a 525 con Fabrizio, Walter, Marco, siamo tutti lì. Sì, no, io sono qua e sto cercando di fare, devo mettere un po' sotto vuoto due cose, quindi ho dovuto degustare. Ehi, qua c'ho le cuffie, però ho abbassato il volume, sono 2 metri. Beh, 2 metri. Sta arrivando Tino, Sto prendendo il camper, così ho il frigo anch'io e degustiamo il guanciale assieme. Guarda che già c'è posto qua, c'ho il piazzale, quindi non c'è problema. Sta arrivando, mandami le coordinate, sta arrivando. Ti mando la posizione. Va bene, comunque lo lascio così? Sì, lascia così che già va bene. Andà bene, dai. Ho dovuto fare delle regolazioni l'altro giorno e quindi mi ero rimasto così. Va bene, dai, se così va bene lo lascio. Questo numero si sente sotto fondo, sì, che cos'è? La ventola? Sì, è la ventola dello switch, quelli cinesi, quelli da dritti, però è un 30 ampere e va bene, mi porta bene sia l'SSB che il 747, ce l'ho attaccato al microfono, quindi è molto vicino. Io ce l'ho da 50, ma di quelli... è uno di quelli da 50 che mi aveva dato Fabrizio. Quelli vanno molto bene, non c'hanno strumenti, però vanno bene. Quelli che si mettono nel computer. No, quello che si mettono nel computer è un altro. Che mi hanno messo le presette rosse e nere, poi c'è on e off, la ventolina sopra, insomma. Poi ci hanno messo le lucette colorate all'interno della ventola. Insomma, no, però non so da quanto sia, perché sicuramente l'hanno smontato da un PC, ma credo che sia un 5 ampere. Boh. Quello che è scoppiato ancora ce l'hai? Quello che è scoppiato è da Fabrizio. Lui. Lui, oh, yeah. Boh, io ce l'ho, non so se ne ho un altro di quelli, boh. Non lo so, non riesco a trovarlo, forse dentro qualche cassetta. No, l'ho lasciato lì, non mi poteva fare niente, infatti l'ho ordinato da... Boh, non so se neanche Wish o da qualche altra parte, piccolino e va bene. Io ho sempre il Boxer, poi ho il Diamond, e poi ho due AT... S50 e quindi va bene così, già ne ho le mette tutte. È bianco per me che mi stanno rilanciando in VHF, riprendi già. Avete parlato tu e un altro, non ho capito chi era. Ha detto, forse ero io, ha detto che io ho questo della Sadelka, che è perfetto, me lo tiene bene, è grande, cioè, ha gli strumenti, addirittura so anche che pesa un trono, pesa 11 kg, è un marraggio. Ah vabbè, quello da 50 ampere ne ho, a parte quello della linea, però ne ho un altro da 50 ampere che è pesante, stesso mattone, ma questi sono leggeri, vanno bene, ha ragione Gianni, sono senza strumenti, però per quello che devono fare ha voglia. Va bene, lancio a Gianni, così mi metto a fare sotto il vuoto qua e poi al limite entro in casa, che qua non è che ci sia tanto calduccio, cioè là c'è la stufa accesa, qua no. E beh, metti un altro paio di bicchieri di vita, poi già ti vai nel caldo. Va solo, dai, la cosa è bella in compagnia. Sta arrivando. Gianni, riprendi. No, vi lascio che è arrivata la pizza e dobbiamo mangiare. Ci sentiamo ragazzi, statemi bene. Ciao Gianni, ciao, vai Eugenio. Credo Gianni fosse la tua propria via. Sì, Gianni ha salutato che deve mangiare, è arrivata la pizza. Alisetti, allora dei finali, Gianni, che ci è rimasto? Io, l'amico Tino, che sta degustando, e poi, Claudio, ci sei? No, l'hanno chiamato in altre bande. Non ho capito. Quindi ci siamo io e te. Guarda, ancora per poco oggi, perché qua c'è freddo. La temperatura ideale è per altre cose, ma non per rimanere qua a modulare. Allora vai, riprendi a casa, no? No, questo devo mettere due cose sotto il vuoto e poi vado. Sei sotto casa tua o dentro casa tua? Non ho capito. Sei in garage? No, sono, allora è un container questo, tipo una cella frigo, capito? E sono in piazza di casa, però ho un'altra antenna. Cosa ti posso dire? Sono a 20 metri da casa. Ah, lo tieni fuori questo container, ma nel tuo cortile. Allora! Ah, ok. Cos'è che stai macinando? No, è la macchina, aspetta. È la macchina sotto vuoto. Temo. E tu guarito sei? Ciao Tino, no, ciao al Covid. Ma sei risultato positivo, Lu? Ehi, a Tino. Positivo. Vabbè, te l'ha chiesto Eugenio. Sì, vabbè, dai, riprenditi, cosa vuoi ti dica? Io adesso scappo da qua perché c'è freddo. E lo posso immaginare. Vabbè, ma nel freddo c'era una buona da mangiare, però. Vabbè, ma già lo sai, freddo un pochino. E quindi, 15, quindi? E 15 più 6, 32. Ho capito, era prima con tutti e due. Oh, l'ho portato il cane dopo, verso le 9:30. E poi ciccia, a letto, e buonanotte a secchio. No, io l'ho da febbre, è uscito da solo. Ma grande, ha buonanotte di sigarette, un giornale. Tipo in moto la macchina, andava a zicare lì, Filippo. Ma che c'è la cappa alle 11? Dari tu, vizzino, è anziano. Ma quando c'è freddo, lo si alza. Dico, esce fuori, ti apro la porta, fatti mi scivolo laggiù, che fium, e vai, ci colica di nuovo. Ehi, ormai questi cari poi d'inverno, è così. L'estate un po' meno, soffrono il caldo, però d'inverno si dappani. Cioè, la neve poco fa stava rompendo le balle, piangendo, perché la marina con una copertina, no, cioè, viene sopra a noi, nel divano, ma è no che noi te la può alzare, manco molto. C'è il sole sul letto. No, il caldo soffre il mio. Quando mi sono 40 gradi ed è trascinato nell'Eba, è una cosa allucinante. Se ci sono 24 gradi nel salone e lui è coperto con la copertina. Vabbè, quello perché è anziano. No, per esempio c'è tutto il caldo, capito? E poi stavo ascoltando di lacra, ma... Cioè, mi da fastidio che molti arrivano bene e gli altri li sento attratti, allora preferiscono ascoltare, non so perché. Lascia perdere, non sto ascoltando manco io più, sono tutti importati con un bortatilino. Sciolgo fa quel scemo con i bortatilini, io sento Roberto e Fabrizio, gli altri non li sento. Beh, infatti non manco io, no, sento attratti, sento bene a Marco, altro chi era, cosa, il vicino mio di Cappuccini. Ehi, sto scendo col portatile, vado in giro con la macchina col portatile, con le antenne esterne siamo io, Fabrizio e Roberto. Mentina? Ah? Chi è Mentina? No, siamo solo lui, basta. Andate, ciao ragazzi, sto mollando qua io, dai, sto andando là, ciao. Ciao Ticcio, comunque c'è veramente bene da lì, eh. Ehi, aiutato, 747, una Grand Prix, la radio la conosci, con un più 5. Ma la radio, segnale se quasi no, è ottimo per la truppa. Babbo, ciao, Eugenio, riprendi, che sei in parcheggio. No, io non ci vado mai a troppa, gioco sempre a tua. Sono qua, dai, già ci sentiamo tutti. gustato tutte cose, hai, sì. Tutte cose no, sono le cose che mio figlio vuole la carbonara, quindi un pezzo di guanciale, un pezzo di pancetta e il resto è noia. Quindi gli devo presentarci la carbonara, se no non corre più a calcio. Fui. Ciao, sto chiudendo qua. Ciao. Io mi allontano un po' da... sono anche troppo qua in Santa, mi sono già rotto le scarpe. A dopo, ragazzi. Qui stavo vendendo oggi la un BMW X4 del 2015, 34.500 euro, 140.000 km percorsi. No, a me le macchine secondo me non mi piacciono, sinceramente. Le macchine secondo me non mi piacciono. Io non so che comprate nuove, secondo me non... l'unica cosa che ho fatto secondo me è il furgone, che era così tanto per avere qualcosa da distruggere, però la macchina secondo me, soprattutto quando mi spendo i soldi, non mi piace. Nuova, là, ci sono le foto, tutta bella lucida, bella, nuova di pacca, sì, 34.500 euro. Ma se non mi serve una macchina? Ce la fui, 34.500 euro, ma te la compri. Poi c'è BMW, aspetta, c'è la X6, 65.000 km, 54.500 euro. Non mi piace l'X6, è troppo grossa, non mi piace. Però pompano, no, camminano. Già cammina, ma non... cioè non mi posso nulla, l'X6 è troppo grossa, già l'X4 è grossa, l'X6 è... non mi piace. Poi c'è un Porsche Macan diesel, veicolo ordinabile su richiesta, 85.000 km nel 2018, 54.000 euro. Lo compro. Ciao roba. Ui, è puro Mac. Ne voglio due di quelle. Oh, la mia l'ho pagata di più, Poi c'è un Audi A3, se è quella della foto, è abbastanza nuova, del 2018, 100.000 km percorsi, cambio automatico, 25.000 euro, 25.500. No, l'Audi non mi piace, guarda, sono bellissime macchine, ma a me non mi piace. L'alleamo oggi, ciao a tutti, comunque buona sera, ho sentito Eugenio, Luca, poi chi c'è? Non ho sentito nessun altro, non ho fatto ascolto. C'è Cristian, è stato anche Cristian, poi c'è Claudio, non so se n'è andato, si è spostato, c'era Gianni, Natalino, c'era anche Coso, Carlo, ma dipende roba. Ma una domanda, ma Natalino l'antenna ne ha tolto? Non lo so. Non la vedo, ma c'era qua, probabilmente l'antenna ce l'aveva, o se ha messo la nuova, non la noto più, quando passavo la vedevo, sono passato due volte, però non ci ho fatto caso. Non lo so, sa di sì, non lo so. Natalino ci sei, l'antenna ce l'hai sempre, no, sì. È l'amico del Porto Torres, per sta combinando, non la voglio oggi. Negativo, io rientro, dovrei rientrare il 13, vediamo un po'. 15 giorni di ferie, quanto te ne sei preso? Beh, ho ancora tutte le ferie dell'anno scorso io. Fai bene, fatti, speriamo che il tempo sia clemente, che non piova, almeno ti godi se devi andare da qualche parte, anche se c'è freddo, però magari qualche giornata, oggi per dire era una bella giornata, il mare non sembrava neanche brutto, confermi? Oggi. No, non lo so perché non sto uscendo di casa, vabbè, non sono in ferie io, sono fermo, perché sono malato, mi sono preso questo cazzo di Covid anch'io. Sono in quarantena. Ah, scusa, non lo sapevo, pensavo che avessi degli arretrati. Aspetta, magari ti stai riservando per non perderle, dai. Ok, c'è anche Cristian, avanti Cristian, che non lo senti. Buonasera a tutti. Hai messo l'antenna, Cristian? No, sono in macchina ancora. Dove sei? Sono giù in macchina. Qua c'è il bello forte, 9 più 20 arrivi. Sono arrivato in Valletta, c'è la mancata l'ingresso. Ah, pure tu positivo al Covid sei oggi? Allora, non hai capito. No, non ho capito, ora siamo in due, cazzo, anche roba è positivo. Stamattina ho fatto gli accertamenti, positivo al Covid, devo stare a casa. E quanti vaccini hai fatto? 3, ma sicuramente il terzo non è entrato in giro bene. lasciamo perdere. Allora, stavo ascoltando questo luminare, ha detto il casotto grande, lo sai che cos'è? Che stanno mischiando i vaccini e si formano le varianti, è quello il problema più grave, non è tanto il vaccino di per sé, ci sono i misculi, ti danno una dose di uno, una dose dell'altro. L'unico posto al mondo dove danno i misculi dei vaccini, nessuna parte del mondo danno i vaccini diversi, danno sempre lo stesso vaccino, solo in Italia stanno mischiando i vaccini e si formano varianti nuove, per cui la semobilità. Però se ormai la giù fatti, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe. Ormai è fatta, siamo vivo. Però il problema è questo, che dicono chi prende il Covid o chi prende la variante o chi prende chissà cosa prende, che non è vaccinato va peggio. Sì. Vabbè, lasciamo mobilità. Ok, non entriamo in merito. Ti racconto solo la barzelletta. Nella 131 c'è stato un incidente gravissimo. Tre persone dentro la macchina, due sono morte e il terzo gravissimo però è entrato in coma e si è salvato. Quelli che sono morti erano tutti e due non vaccinati. E poi ragiona tu. Vabbè, non so, Robert. Dove assassa di questo? È una barzelletta per dimostrare tutte le fesserie che raccontano la gente, ma a me ci sarebbe da scrivere i libri, tu torna indietro nel tempo e ti guardi tutte le cose che hanno raccontato e poi come siamo arrivati, che ne bastava una dose, poi due dosi, poi tre dosi, in Israele già quattro dosi, alla fine c'è questo che l'ha messo, dice dobbiamo farla ogni sei mesi, diventerà ogni sei mesi, ti fai il braccio sollevato col buco nella camicia in modo che ogni sei mesi vai e non stai neanche a sollevarti il coso, prendono già le magliette e le camicie con l'apertura, con i bottoni già pronte, se le vuoi. Allora, io rispetto chi non lo vuole fare, o chi lo fa comunque, non mi interessa, non è che non mi interessa, così, e poi quello che esce, ne esce, ma io sono costretto a farlo, se lo vuoi fare con questi tamponi ogni volta, al dentista neanche il suo vaccino, se no non mi facciamo entrare. No, ma io non sto criticando chi se lo fa, assolutamente, lungi da me, sono scelte di coso, la maggior parte se lo fanno tutti per uscire, come hai detto tu, per avere la possibilità, ma il problema non è così, cioè se fosse così io ti darei ragione, tu te lo fai, almeno sono libero di fare tutto quello che voglio, invece non è assolutamente così, come le mascherine, prima le mascherine, quelle là, devi mettere, adesso di colpo non vanno più bene, io sono da quando sono uscito, che le conosco come funzionano le mascherine, che non servivano a niente. Adesso finalmente l'hanno capito le FFP2 che diciamo vanno un po' meglio ma anche quelle non è che siano al 100%, per cui di cosa stiamo parlando? Non puoi creare delle notizie che non stanno né in cielo né in terra, il vaccino prima a meno 80 gradi sotto zero dovevi fare, facciamo vedere questi camion speciali, adesso vengono in moto e te lo fanno a casa tua sotto il sole. Niente, vaccinato, io ne ho due vaccini, il terzo non me lo fanno perché l'ho passato e quindi mi sono immunizzato, come dicono loro, poi non lo so. Io mi sono reso conto di una cosa, da inizio della pandemia oggi, che un dirigente è diventato virologa, nonostante molti non abbiano neanche la terza media, tutti siamo virologi. No, assolutamente, io non sono mai stato virologo, però ascolto chi ha delle notizie diverse da quelle che ti fanno sentire, perché tu quando parli di una cosa devi sentire anche l'altra campana, e poi i dubbi te li fai venire o te li togli i dubbi, io ragiono così, no, non ragiono solo da una direzione, è come quando dicono 2 più 2 fa 4, quella è una certezza, questa non è una certezza, perché tu prima hai detto delle cose che poi non sono state dimostrate dalla realtà dei fatti, è la cosa più brutta. La prima volta nella storia della medicina e del corpo umano stai curando le persone sane, normalmente si curano le persone malate, devi investire sulla cura, non sui vaccini, come si fa per tutte le malattie. Ci sono malattie molto ma molto più gravi, che non c'è stato tutto questo monitoraggio, questo controllo, questo coso. Di Alzheimer quante persone muoiono all'anno? Lo sapete voi nel mondo? Milioni, milioni e milioni. Io non ho visto tutto l'interesse per l'Alzheimer. perché non conviene l'Alzheimer curarlo con il vaccino o trovare la medicina, perché si guadagna di più a farti le cure che durano 3-4 anni, ogni giorno prendi 3 medicine, cioè, questo è tutto il discorso, è una questione di soldi. Cacchio, esiste la cura in Francia, l'hanno trovato, ti mettono un cotonfioc nel naso e ti immunizza l'ingresso del virus, cura, si cura al 100%, chissà perché non la stanno sponsorizzando, è preferibile fare i vaccini che ci guadagnano di più. E comunque l'Alzheimer non è una cosa contagiosa, quindi è già un qualcosa a parte. Ma tu ne hai idea cosa vuol dire avere l'Alzheimer? Cosa vuol dire per una persona che se lo prende e tutti i problemi che c'è all'intorno di questa persona? Il cancro, tutte le malattie. Chiedilo a Claudio, alla moglie, quando sta aspettando per fare un esame importantissimo, e non gliene fanno fare, deve aspettare perché ci sono le priorità di andare a farti fare il vaccino. Ma di cosa stiamo parlando? Gente deve fare visite per tumori al seno, che c'ha dei noduli e non gliene fanno fare. Oggi senti alla televisione, non te ne fanno fare perché ci sono le priorità del coso, dei vaccini, di una malattia che può essere grave, può aver creato dei morti, nessuno ne dubita, però tu non puoi togliere delle cose molto più importanti, cioè stai facendo spassare una cosa, già in Inghilterra meno male se ne sono accorti, tra qualche giorno l'epidemia viene passata in un altro modo, come si chiama, influenza stagionale, per cui le cose cambiano, purtroppo ci sono soldi dietro, è solo questo il problema, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però tu non puoi dire ti fai il vaccino e sei libero di fare quello che vuoi. Assolutamente non è successo, e questo è il guaio più grave. E poi ognuno ci crede o non ci crede, perché io dico il vaccino è tua libertà, però tu se mi faccio il vaccino mi devi permettere di uscire, di fare quello che facevo prima, invece non è cambiato niente, le persone devono avere le mascherine, distanziamento eccetera eccetera, adesso c'è la nuova ondata e siamo peggio di prima, non è cambiato niente, la popolazione l'80% risulterebbe vaccinata, e cosa è cambiato? Nulla, perché le restrizioni adesso negli stadi non si può più andare, massimo 5.000, le piscine non ci puoi andare, discoteche, che cosa è cambiato? Nulla. Chi non è vaccinato? Tanto ti contagiano a te, sì, e poi tra parentesi, contagiati non significa che muori, perché stanno facendo passare, sei contagiato e quindi mi curo, ci sono le medicine, se io mi prendo l'influenza, certo ci sono le persone che hanno altre patologie, degli anziani, che anche mio babbo a 88 anni bastava un raffreddore e rischiava la vita perché non ha gli anticorpi, però una persona sana, di cosa stiamo parlando? Un bambino, che non ci sono casi di morte di bambini, e mi costringe a vaccinare, se no non lo fa entrare a scuola, ma di cosa stiamo parlando? Poi i grandi, gli adulti, te lo vuoi fare, libero di fartelo, dici non voglio avere rischi perché mi hanno detto, fatelo, nessuno te lo viene, però non puoi trasformare un'epidemia, un'influenza in una cosa che stiamo tutti morendo, ma di cosa stiamo parlando? Tutte le imprese che stanno morendo, che hanno chiuso, tutti i casi di depressione giovanile, quello non lo dicono mai, lo sai quanto sono aumentati i casi di depressione giovanile, di suicidi? Non lo dicono perché non conviene dirlo. Comunque un qualcosa là, si è sempre detto, no? Che una broncopolmonite è molto brutta. Tranquillo che io ne so qualcosa, di qualcuno vicino a me sarà presa di brutto intubato. E ti segna i polmoni, te li segna, adesso che lui l'ha passato si vedono ancora le tranche lasciati, perché sale le scale e mi viene l'affanno, ed era una persona molto atletica, capito? Adesso sto facendo fisioterapia ai polmoni, per poter riprendere la prestazione atletica che aveva prima il Covid. Grazie, non è qualcosa di brutto, poi che ci stiano magari giostrando sopra, questo siamo in Italia, si sa che in ogni caso ci speculano sopra, in ogni caso, però non è un'influenza normale, Robe, fidati. Oggi nessuno lo dice, sicuramente è una cosa grave, è pesante, niente da dire, io la broncopolmonite me la son presa e so cosa vuol dire, sono stato 21 giorni isolato a casa e 3 giorni pensavo di morire, in quei primi 3 giorni ho detto muoio perché non reagivo più, non avevo niente, e meno male me l'ho passata, l'ha passata degli amici miei carissimi, se succede a un ragazzo diciamo sano, io mi consideravo sano, l'ho passata, se succede a una persona appena appena che ha dei problemi ci muore, ma ci muore comunque anche con un'influenza normale. normale, perché l'influenza ogni anno muoiono dai 15 ai 18 mila persone solo in Italia, l'influenza è normale, qua magari ne possono morire di più, ne possono morire poco di meno, non è, in casi di morte sono stati inferiori comunque rispetto al corso. Adesso la cosa bella, quando ti prendi l'influenza, si chiama influenza, prima l'influenza si chiamava Covid e ti mandavano in cosa, in terapia come Covid, e magari c'avevi un'influenza normale, per cui lasciamo perdere, dai, chiudiamo il discorso qua, se no c'è, ho sentito Natalino, vai Natalino, Natalino, tu, ti è rimasto qua, Luca. Sì, c'è stato un break, avanti, chi è? Ciao, buonasera, Antonello da Porto Torres. Antonello da Porto Torres. Eia, ciao Antonello, salutoni, eia. E quello è il vicino di Eugenio, riprenderò. E poi è troppo forte per arrivare a Porto Torres, 9:20 arriva qua, nessuno arriva così forte. No, qua fermo il Porto Torres, qua fermo io. Eia, ciao, buonasera a tutti. No, no, l'ho acceso, non so adesso chi c'era. E niente, il concorrente di Eugenio sono. Ah, no, la grande, ma che antenna c'è per arrivare così forte? No, antenna, Mantova, niente, una parola solo, dico, quello che stavi dicendo tu è giusto, non fare una grinza. E oggi purtroppo se tu le cose non le ascolti sia da un lato che dall'altro, non lo so cosa si guarda, si attende la televisione e dalla mattina alla sera non ti fanno vedere solo quello esclusivamente che conviene a loro e non a te, capito? Quindi la gente poi si intestardisce, continua con chi ha ragioni tutti i giorni con la stessa cosa, che la colpa è di chi non si vaccina eccetera eccetera, tutto sbagliato, non c'entra nulla. Uno sei vaccinato, ma sei immune, no? Quindi se ti hai pigliato vuol dire che sul vaccino non si va a nulla. E c'è uno scopo ben preciso. E poi il discorso è quando vai a finire in terapia intensiva pagano, no? All'ospedale 9.000 euro a persona. E la moglie di tutto. A me piace documentarmi, no? Perché non mi piace essere preso da ignorante. Dico una cosa, uno, il vaccino non ti rende immune. E se siete convinti che vaccinandovi non vi prendete il Covid, no, siete sbagliati. Vaccinandovi, ok, vi rendete solamente immune alla terapia intensiva. E questo è un dato di fatto, ok? Vaccinandoti ti prende come un'influenza normale, mal di ossa, come un'influenza normale. Ti rende immune dalla terapia intensiva. E questo non lo potete negare, quindi non potete dire che prendete il vaccino non ti può prendere il Covid, non è vero, non può prendere lo stesso, però non ti porta in terapia intensiva, tutto qua. Poi io ti ripeto, a me piace sentire tante campane, Antonio, non è che faccio un televisore a senso unico, non è un episodio di libro. Comunque io ti ripeto, non è che chi si vaccina o chi non si vaccina, io me lo sono dovuto fare per forza, perché se no non ci faceva entrare all'aeroporto, quindi lavorare deve fare, non lo sono voluto fare per forza, e ti dirò, non so cosa dirti, di questo discorso ne possiamo parlare fino al 2021, non si verrà mai a capo di niente, perché siamo in Italia, perché c'è la speculazione, la mafia, perché su e chissà, e se fossimo fatti in un'altra nazione, come che ne so la Svezia, che usa solo la mascherina e non esiste il Green Pass, ok, e c'è il minor numero di contagiati, e anche vabbè, molto più sottopopolata di noi, comunque contagi a pari numero della popolazione, contagi sono quasi a zero. Non esiste il Green Pass, qua purtroppo siamo in Italia. E oggi posso aggiungere una cosa? Sì, dimmi. Allora, purtroppo stanno raccontando troppe balle. Tu mi dirai, ascolti, sì, però cacchio, tu non puoi cambiare l'idea. Prima i guanti, non andavano bene i guanti, li togli, poi mangi in piedi, seduto in piedi. In Svezia non c'è nessun lockdown, non hanno mai chiuso, non hanno fatto niente. Controllati quanti morti ci sono. Tu in Italia hanno ammassato un bel di gente, i primi che sono morti, perché non sapevano come curarli, sbagliati. davano le cure, c'erano le trombosi e gli davano l'ossigeno, hanno sbagliato completamente perché nessuno ha avuto il coraggio di fare le autopsie, e quello è il problema. Poi pubblicizzavano tutti i camion con tutti i morti, e certo che c'erano i camion con tutti i morti, prova a lasciare un mese chiuso alla camera mortuaria e non fai entrare a nessuno, tu tutti i morti li accumuli, come fai a gestirli? Devi chiamare l'esercito, come quando chiudevano i panifici per il coso, perché non c'era lo sciopero dei panettieri, lo facevano l'esercito, avevi visto l'esercito, ha fatto il pane, ha fatto il pane perché se... E in questo caso è successo così, stanno raccontando balle a nastro. Lo sai quanto danno alle televisioni private, non parliamo alla RAI e a Canale 5 e Network, cosa gli danno di soldi per ogni sacchetto, ci sono gli orari per dare, per dire ogni ora devi dare, per dire tre sacchetti parlando di Covid, lo sai quanti soldi danno alla televisione privata? 70.000 euro, se sono dei network nazionali danno 750.000 euro all'anno, ma per forza che tu pubblicizzi i soldi. Io non ho sentito un'intervista di un luminare, raramente, proprio pochissime volte, è possibile che tutti quelli che parlano, i luminari, i premi Nobel, eccetera, eccetera, quello che ha scoperto l'HIV, la isolata, quel montagnere, e come lui ce ne sono decine di grandissimi luminari, no? Quei buffoni che stanno alla televisione, no? Possibile che non li fai mai mettere a confronto con questi, questi, come chiamiamoli? Nella classifica mondiale neanche esistono tra i primi 100 dei più grandi scienziati. E noi ascoltiamo uno che se ne sveglia la mattina e ti dice cosa? L'unica soluzione, quando ti fai, se proprio sei terrorizzato, ti fai il tampone, verifichi che sei negativo, a quel punto sulla gente si fidava che aveva il vaccino ed era convinta di essere immune. È assolutamente, è esattamente il contrario, perché quelli pseudo vaccinati, perché questo non è un vaccino, ricordatevi, non è un vaccino, il vaccino quando ti iniettano la malattia ti fai gli anticorpi per quella malattia, tipo il tetano, il tifo, eccetera. Qua ti iniettano delle sostanze, tra parentesi, che nessuno conosce, perché le hanno vietate di controllarle, di un virus perché si muta continuamente e nessuno sa, l'ha mai isolato nessuno, di cosa stiamo parlando? E la gente è convinta di che hanno terrorizzato la popolazione, hanno distrutto l'economia, chissà per quale motivo, e la gente è convinta, si fa solo il vaccino solo per essere libero, dicono libero, invece è esattamente il contrario, perché non è cambiato nulla, non è cambiato assolutamente niente. E qua chiudo il discorso perché cioè, ci sarebbero giorni da parlare. Chi c'era qua? Avanti, chi tocca? Guarda, non so cosa dire. Comunque è giusto, dai, è giusto, giusto, io questa cosa la vedo giusta, giusta, giusta, esattamente come sarebbe il suo, è giusta così. Mi dispiace perché non ci crede, purtroppo gli interessi sono troppi, e so, e si può avere, quando si può avere l'interesse è capitato di tutto. Comunque stavo leggendo adesso a quel fatta che ha ucciso quella, cioè, rumena, era sorso, per caso gli hanno dato. Comunque sappiate una cosa, a prescindere che io sono d'accordo con tutto il vostro discorso, ciao Antonello, buonasera, e ciao anche a Roberto di nuovo, ciao a tutti. Sappiate una cosa però, il problema è nostro, perché chi non si vaccina non si va a diventare più a lungo, non può andare più a lungo, né in banca, né alle poste, capito? Può entrare in farmacia e al supermercato, ma di cosa siamo provvedenti? Lo ha detto bene, abbiamo perso la libertà, questo è il punto, la libertà, quello è il danno più grave. Poi se tu ti vuoi fare il vaccino, fattino, però nonostante tutto che c'è il vaccino non ti permettono di fare le cose che facevi prima, perché se tu vuoi andare a sciare non ci puoi andare in certi posti naturalmente, se vuoi andare dentro in discoteca sono chiuse e non ti fanno andare, e allora cosa mi è servito a fare il vaccino? Ti stanno togliendo la libertà, questo è il punto maggiore. Guarda in Israele, sono arrivata la quarta dose, tutti vaccinati, guardati le terapie come sono arrivati i numeri delle terapie delle persone contagiate, di cosa stiamo parlando? Ma il problema è che chi non è vaccinato non può andare più da nessuna parte, deve rimanere chiuso, secco il petto, capito? Non puoi andare da nessuna parte, non puoi avere ristoranti, pizzerie, bar, non me ne fotti nulla, ma anche i posti pubblici come le poste e le banche, se non hai la vaccinazione, il Green Pass, non ti va a diventare. Ed è sbagliato, tu vai in Inghilterra a Londra, c'è un amico carissimo, già lo conosci, il fratello di Marcello, quello vive a Londra, lui vaccino non se ne ha fatto, lui entra in qualunque locale, prima di entrare, deve avere il tampone effettivo valido, lui può entrare in qualunque posto, non c'è nessuna limitazione, così devi fare, e tu devi entrare in discoteca, devi avere un tampone valido, cosa cacchio me ne frega del vaccino, tu non puoi impormi il vaccino, perché io posso anche essere allergico al vaccino, posso avere chissà che cosa, perché posso avere anche gli anticorpi al 100%, perché io prima di farmi il vaccino dico io ho 10.000 anticorpi ed è un valore altissimo, c'è gente ne ha 15-20.000, che bisogno c'è di farmi un coso, un vaccino, se ho già gli anticorpi validi, in valori altissimi? E questo è il problema. Io mi faccio il tampone prima di entrare in discoteca e tu mi fai entrare, invece il problema è che la gente è convinta che se ha fatto il vaccino può fare quello che vuole e ha contagiato mezzo mondo, perché in Italia siamo oltre il 70-80% di vaccinati, e invece non è già un dubbio più nulla, perché i contagi sono aumentati in modo esorbitante pur essendo vaccinati. Ma se ti prendi il Covid muri di meno, muri meno, ti viene meno grave. Ecco che stavo parlando, in base a cosa lo stabilisci? Esiste una statistica che io prendo uno vaccinato, uno vaccinato, gli inietto la medicina? Non stiamo parlando di cosa, di calcoli matematici, sono di calcoli statistici, fatti molto, ma molto in base a quello che vogliono loro, per cui lasciamo mobilitare. Ok, ancora è una domanda, che radio stai utilizzando? La maggior parte di... La gemella è la tua. Vaccinati, non bene. Non fa discorsi, tu fai solo discorsi a senso unico. Le statistiche parlano chiaro, se parli di statistiche. Le statistiche dicono che la maggior parte dei non vaccinati sono tutti in terapia intensiva. Quindi informati bene. Pagatela zitto, Luce, chi te l'ha detto? L'hanno detto la TV. Ah, la TV, bello, grazie. Non è più valido per gli ingressi negli enti pubblici. Avete capito, se no? Che il tampone non è più valido, devi esibire il Green Pass, altrimenti non entri col foglio del tampone, anche se sei negativo, non entri più al luogo. Invece possono entrare quelli vaccinati e contagiati, quelli possono entrare. Ma di cosa stiamo parlando? Non vi rendete conto? Le balle, le fessili che si fa. Tu devi essere una persona sana. Se io sono sano e ti dimostro che sono sano, la legge tu mi dovresti fare entrare. E non mi puoi imporre il vaccino che poi mi contagio lo stesso. Dentro contagioso e contagio mezzo mondo. Ma di cosa stiamo parlando? È una legge sbagliata. È questo il discorso. Infatti tutti gli stessi medici dicono non serve a niente il discorso del Green Pass per il Green Pass deve essere con un tampone, che io sono sicuro che non sono infettato. Quella è la certezza, come fanno in Inghilterra. Vabbè, non so ancora, forse se l'hanno già detto la notizia, ma penso che ancora non la dicano. Mica è successa una cosa grave a Sassari, mio pronto soccorso. Una cosa gravissima, te lo dico senza problemi perché ci lavora mia nipote. Hai capito? È arrivata la donna, accompagnata dal marito, non vaccinata, con un aborto spontaneo, non l'hanno accettata senza Green Pass, robè, a giù mai muri, le è venuta l'emorragia interna fuori dal pronto soccorso, mi. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? E quello è tutto il mio discorso, e non era meglio fargli un tampone, se proprio è febbrezza, a parte che poi è un fake news, quello hanno detto che è tutta una balla che hanno sparato e poi l'hanno controllata con la persona, non ti preoccupare, l'hanno mandata a Pescara, tra parentesi, con un aereo della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare. E comunque la cosa sta diventando troppo grave, troppo grave, a prescindere da chi è vaccinato, da chi non è vaccinato, ci stanno togliendo la libertà e su questo non ci piove. Però il problema, ripeto, che chi non è vaccinato, tampone o tampone, non entra più al luogo, da nessuna parte. E secondo te è giusto? Non sarà giusto, Robè, non sarà giusto, ma alla fin fine qualcuno che cosa deve fare? Cioè io devo stare ogni 72 ore andare a fare un tampone, pagare per entrare da Roberto, devo fare un altro tampone ogni 72 ore per entrare da Antonello, sto parlando di attività, poi devo fare un altro tampone, cazzo, perché devo andare alle porte, non esiste più, super Green Pass o Green Pass, ok, niente più tamponi. Niente più tamponi, si entra negli enti pubblici e nei posti stabiliti col Green Pass e Super Green Pass, se no non entra al luogo. Cosa giudica? Io ogni mese devo andare a farmi un pagamento molto importante, che ogni mese io faccio un bonifico, tanto cosa devo fare? Devo fare non entrare alle poste, non entrare in banca perché non sono vaccinato. È quello che ti sto dicendo, è proprio per la libertà qua, non stiamo parlando di tamponi o di vaccini, è la libertà, qua stanno togliendo la libertà, ma solo in Italia, questa cosa esiste solo in Italia, non esiste in nessuna parte del mondo. In Austria addirittura stanno dando i soldi per vaccinati, danno, chiedi a Salvatore, 600 euro li hanno dato alle persone non vaccinate, di lì è obbligatorio il vaccino per tutti, danno 600 euro di inalimenti per andare a farti il vaccino. I vaccini che si sono consumati, anzi che non hanno consumato, il ministro, il primo ministro della sanità, il ministro della sanità austriaco, li voleva donare ai paesi poveri, lo sai cosa ha detto l'industria farmaceutica? Assolutamente no, li dovete buttare via e li ridiamo noi, li vendiamo noi, ma di cosa stiamo parlando? È solo questione di rinà, di business, perché tu dici io il vaccino me lo faccio, mi permette di andare dove voglio, libero, invece non è così, non è assolutamente così, perché anche i non vaccinati hanno le limitazioni, perché tu allo stadio non ci puoi entrare anche se sei vaccinato, c'è un limite di persone, non possono entrare più di 5.000 persone allo stadio, nella discoteca puoi avere 10 vaccini, non ti fanno entrare perché sono chiuse, di cosa stiamo parlando? Stiamo togliendo la libertà e buh. Sono stati aperti le discoteche, cioè sei entrato vaccinato. Perché le hanno chiuse, visto che sei vaccinato, hanno la popolazione tutti vaccinati, perché mi chiude le discoteche se dici che il vaccino non mi fa, che mi dà delle cose, delle sicurezze? Spiegamelo tu, dammi una spiegazione. Avevano detto così, dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge, che è impossibile raggiungere. Raggiungiamo il 70, poi l'80, poi il 90, adesso anche i bambini, che non esiste mortalità infantile, non esiste mortalità infantile, bisogna mettere, c'hanno i bambini di 5-6 anni, ma di cosa stiamo parlando? Cioè io devo curare una malattia, non curo una possibile malattia, è come che io mi prendo, mi curo l'ebola, dai, se ti prendi l'ebola ti faccio il vaccino, mi viene l'Alzheimer, mi viene il vaccino, ma io curo i sintomi della malattia, in tutte le medicine si sono curati i sintomi e poi la malattia, che cacchio stiamo parlando? Vabbè, poi ti voglio dire una cosa, come fai, mi hai detto poco fa, non sai questo vaccino cosa c'è, cosa non c'è, fino all'altro giorno ti stavo respirando roba di vernice, fino a casa lì, adesso me ne viene a dire, non sappiamo cosa ci mettono mezzo, io ho un controsenso. Appunto, ma io nelle vernici ho le schede di sicurezza, scusatemi dai che mi è arrivata gente, scusa, riprendo l'occhio, ciao. Vai Antonello, vai. Ciao Bla. No, oggi non c'entra nulla, quello che sta dicendo lui o quello che sta dicendo tu sono le cose diverse. Allora, se ho avuto un travaglio brutto e cosa che ritiri che cose che fanno i mari, benzini, gozi, oli, fanno tutti male. A distanza di tanti anni adesso hanno detto tu per toccare l'olio ti devi mettere i guanti e gli occhiali, ti vuoi dire così andava. Per 50 anni tu mi dica giù la testa, vabbè, comunque vi chiate. Una cosa è quello, l'altro è che tu me lo vuoi mettere in prepotenza, non si può fare questa cosa, cazzo, porco Giuda, non mi vuoi tu obbligare ai tuoi voleri, cioè, ascolta un attimino, Brunetti è alto quanto i coglioni dell'asino, no, non può venire a comandare a me, dopo che hai giocato una vita come te l'hai giocata, e venire indietro a dire, ma a me cosa cazzo devo dire qua, se ti imposta questa cosa, come diceva Claudio, se no non puoi andare sul luogo, ok, sai, ma è imbagliato che tu mi soffendi. Punto e basta, poi tu la vedi giusto, ok, io poi poco fa ti ho detto non sono ignorante, guarda che non ti ha dato ignorante nessuno, perché ognuno di noi ha un'idea, Eugenio, e me ne guarderei bene, prima di dare l'ignorante non abbassone, non ti preoccupare, siamo tutti la stessa barca, mia la vedi. No, attenzione, non ho detto che adesso io leggo e ascolto, non voglio rimanere ignorante, ma ho detto che mi avete detto l'ignorante, attenzione. Sono due cose diverse. Io leggo, mi documento e poi la bocca, ok? Questo io sono fatto così. E ho già detto che il vaccino, questo vaccino che poi che dicono sia vaccino o meno, queste cose che ci stiamo iniettando, che mi sono iniettato, ok? Non ti rende immune a prenderti il Covid, però bensì ti rende immune alla sala intensiva, che è molto, attenzione, è molto, perché io ho visto, ho toccato con mano cosa significa avere qualcuno in terapia intensiva, intubato con l'ossigeno, perché lui era un novax, ok? Lui era un novax a tutti gli effetti. Sono uscito dall'ospedale e andato e si è fatto subito un vaccino, e ha fatto vaccinare anche tutta la famiglia. Quindi, ma ciò non ti rende immune dal prenderti il Covid, attenzione. cioè, attenzione, questo è quello che sto dicendo. Poi tutto il resto che possiamo parlare quanto le volete, non è un problema, però la funzione del vaccino è questa, è farti saltare la terapia intensiva, ok? Fin qua sei d'accordo con me? Io direi tutto quello che vuoi, no? Tutto quello che vuoi, ma dimmi una cosa, rispondimi tu a questo, e quelli che saranno presi dentro all'ospedale sono muscinomatesi, come è messa questa cosa? Rispondimi, ti devo fare il nome, il portatore, ti devo fare il nome, è entrato lì per un'altra cosa, se l'ha preso lì, quindi se per me che se l'hanno preso lì potevano anche bloccarlo il tubo, invece in tubani e gli hanno fatto a terra e ti arrangi già come ti sentiamo tu, quindi da Rue Gianieti, guarda, se ti sei aggiornato è andata che cosa avrai colui e ti rovinano loro e ti mollano lì, si campi campi, si vai esatto in paradiso e se non la si avete Zecchini poi loro ti raccontano quello che vogliono. A vedere muso bravissimo, chi è morto all'ospedale è morto non per il Covid, è morto chi aveva anche il Covid, attenzione, ci ha fatto delle piccole distinzioni, è morto all'ospedale e aveva il Covid, ok, aveva anche il Covid, oltre a avere altre patologie. La madre del mio collega, ti faccio un esempio, la madre del mio collega era una malata terminale di tumore, ok? È morta, non ce l'ha fatta, è morta. Ha fatto abbastanza paura che faria il Covid, capito? È morta all'ospedale. Chi muore all'ospedale con il Covid è perché ha anche altre patologie, non solo al Covid, attenzione. Non hai capito, Eugenio, lì ci sono interessi, volendo ti salvano, perché se a te ti succede un guaio dentro lì, ti devono salvare, ma non ti salvano. Molta gente che adesso è andata vaccino o non vaccino, cosa non cosa, non arriva di entrare a chi vuole fare il tampone prima di entrare, vediamo se bravissimo. Sono cose successe la settimana, io non esco mio oggi, guarda, te che non esco. Non so la gente che deve venire qua, deve venire, non può venire, chi se sente due mari, chi una cosa, chi un'altra, sono andati a finire i pilari, mulla di indietro in corsia come in Teugani, hai capito? Cioè non era fatto un cazzo, non ti danno neanche un bicchiere d'acqua, eccetera, eccetera. E queste cose qua le stavo parlando con l'amico nostro. Se non ti faccio anche i nomi, sto parlando di gente di Sassari e di Polo Torres che vengono qua e mi hanno fatto tutto quanto un racconto, ha detto non si può andare avanti così, porca di la miseria. Purtroppo cosa devi dire? Non è so così, io sono comuda che forse non faccio trabaglio, però mi dà fastidio, quando sento queste cose qua mi dà fastidio. Quindi non è una visione, chi è, non è. Io poco fa ti ho detto una cosa, questa persona qua lì dentro è entrata perché gli hanno fatto un intervento a un'altra parte, ok? Quando è andato per uscire, gli ripeto, l'hanno controllato, gli ho detto se è positivo, ok, quindi non puoi uscire, quindi devi rimanere. Oh, l'hanno curato, l'hanno fatto, hanno in tempo intensivo, hanno una dinghivi, da lì sbagliano perché hanno sbagliato, lo spostano a un'altra parte e decidono. E chi lo muoce insomma a tagliare in coscia, a me che piace, Burus è anche la gente di Siraghi Dughiera, vabbè ok, però cazzo non è manco io, c'è entrato quello anche su, indietro, non va via un cazzo, e tu mi dici è normale, no non è normale, perché tanta gente che è entrata lì, se no te ne rifugi da un'altra. Vabbè, non andiamo lontano, non ti voglio fare il nome della bassona, di casa, l'anno il 24 è uscito, operato, va su quanto a posto, l'hanno mullato, dopo due giorni è stato male, si è andato a pusciare, e torna attaccato in questo centro di tampone della Valle Agricola, a me l'hai mullato di fame, capo di casa, cioè è inutile che si dinghiri a girarla, a non girarla, cioè ma di cosa mi va vedendo in nome? Di Carusani è di Cosani di qua, è poco Rusani, beh, è cosa gli è stato imposto di dire e di fare, hai capito? Da chi comanda a quello che è più in basso. Vabbè, poi la sanità sassarese si sa com'è, la storia delle corsie, ruba via le prima, ruba di lavà, lo faranno sempre. È diventato oggi, io dico sempre, no? E dico a tutti, i cura raventra in ghiri, compreso, bisogna secondo me adesso a parte tutto, se uno mantiene distanze, cose, se rimane tranquillo, non si può, non succede nulla. Le cose succedono quando la gente si arrimari e si n'anda in giro così a farsi vedere, eccetera, prendi vinta di nuda, toccando quello che non deve toccare, ti antichicosi, uno contagia l'altro, c'è un casino. Io non l'avrei mai fatto una cosa del genere, perché se sto male il problema è mio e me lo tengo io, capito? Non è cosa che mi riguarda incasinare la vita dell'altro, assolutamente no. Gli altri però a me l'hanno fatto, così oggi, capito? E solo a saperlo lo prendo e lo appendo come una cornacchia, però chi è? Boh, io non esco, e oggi non esco io, è successo qua. se no belli sa a voce sulla persona. Io sto male, tu mi dici oggi vieni a casa, guardi sì, quanto ne va, non vengo perché sto male, evito di venire perché sto male. Quello sta sempre al buon senso della persona. Ci sono quegli imbecilli, non li ha futilità e cioè, quello ti ripeto, al buon senso della persona, vabbè comunque. Dille a Roberto che apparato sta usando, va? Ehi, dopo gli dico, cosa hai combinato tu? Io, cosa hai combinato? Noi siamo in tre, tutte e tre a casa, crebati. Ah, vedo, oh porca miseria. Guarda, io ti dico solo una cosa qua, guarda, mi lascia l'ugaglio, questo te lo posso dire, mi lascia l'ugaglio, non devi lì a quei pirati, queste cose, e poi ti passa. La cosa brutta è che purtroppo non si riesce un po' di voce a staffemme perché una boccata d'aria fresca piace, perché e si va a allungare la situazione, però se uno si mise ai sciati, questa cosa passa, perché altri che l'hanno avuto, guarda, abbiamo parlato, fatto, detto non uscire, stai a casa, ma io non posso uscire a casa, stai a casa, stai a casa, poi non le dici a me si cose, cazzo, oh ya, cazzo, io mai fermo fuori, fissate in casa sono rimasto, ma no, purtroppo è così, devi restare fermo, se no ti incasineggi la vita, incasineggi la tua, pure dai lastri, perché così. Ma lo dovrebbero fare un po' tutti, uno sta male, stai a casa, ma fregatene le palle, poi ti riprendi e esci, che cazzo ne è tanta questa bressa, questa cosa. Invece anche da noi, non solo da voi, perché qua ne viene gente tanta dalle parti tue, tutti i giorni, anche oggi altre quattro, bene gente, e ci parlano, no, c'hanno attività, c'hanno questo, c'hanno quello, che trovagliano in banca, eccetera. È così, giusto, ma non, ripeto, non frantini,